L'asino e il cagnolino da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Solo ai pochi che il ciel ha in maggior cura è dato il dolce dono di natura d'esser cari e simpatici. Contro il suo genio invan altri s'ingegna di comparire amabile. Un spaccalegna è sempre un spaccalegna. Un asino già fu, conta la favola, che pensando di rendersi simpatico, disse un giorno fra sé: il cagnolin, perché piccino, è il frugolo dei padroni che in grembo se lo stringono, e giusto ciò non è. A lui bocconi prelibati e zucchero, perché sa dar la zampa al suo padrone, e per ogni smorfietta una carezza. E a me, perché son bestia non avvezza ai complimenti, sugo di bastone. Così disse fra sé la grossa bestia, e un dì che il suo padron sedeva a tavola, alzò una brutta zampa e con la musica più soave che ciuco modulò al padroncin la guancia carezzò. Oh, oh, quale carezza! Oh, quale musica! Olà, Martino, olà! Martino accorre e subito ballar con altra solfa me lo fa. Fine della favola L'asino e il cagnolino. Questa registrazione è di dominio pubblico.